Perché? Questa è la domanda che più spesso mi pongono. Pourquoi? Perché? A che scopo? Perché tu cammini sul filo? Perché tu sfidi il destino? Per me, camminare sul filo è la vita. Sì, la vita. I funamboli, cronache di un paese in equilibrio. Di Alessandro Milan, con Veronica Gentili e Leonardo Manera. Sono tornati i funamboli alle 9:08, in perfetta salute, cara Veronica Gentili, in perfetta salute. Ma ti sento, ma che vocina, ma che ti è successo? Diente. Non niente. Ti è successo niente? Hai gozzovigliato troppo questo weekend e ti sei... ridotto così? Ma no, è che l'inizio della scuola, i bambini che si contagiano, tornano a casa, è peggio di Kim Jong-un questa combinazione. Hai capito? Termonucleare. Chissà che hai fatto questo weekend e adesso dai la colpa ai bambini. No, la colpa. Che essere abietto, che essere immondo avrai fatto. No. Che vergogna. E poi vieni a lavorare al sole 24 ore nella radio di Confi. Che schifo. No, ma no. Bonucci, ma no. Lotta, Zapata, oh mamma mia, guarda questi che ti mettono. La smettete! Per mettermi ste cose. Ma perché bisogna parlare di calcio il lunedì? Ma quando mai si parla di calcio? Scusami Alessandro, ma non sarà mica su che ti Zapata! Sei... Da due passi! Mamma. Sfonda la rete! Ma ancora un errore difensivo. Cosa vuoi dire? Parla tu Milan. Veronica, perché tu questi... Zapata! No, ma mi chiedevo, non ti sarai mica sentito poco bene a causa di questa saga letteraria colombiana, di questi Budenbrook colombiani, chi? Dei cugini Zapata, questi due scrittori sì, celeberrimi... Sì. Ma va, no, fangi. No. Ma no. Guarda, scusa. mi sono trattenuto. Anche perché con questa voce non sei in condizione di opporti proprio a nessuno. Il calcio è una cosa che non interessa a te e non interessa a me. Però quindi... Stoppata! Ma guarda, questo è Peter Bescapè, che tra l'altro tiene al Milan pure lui. No, purtroppo ti do questa notizia. Questa volta non questa c'entra la Roma. Regia di lì. Qui arrivano da Roma le cattiverie. Ah, era Valerio da Roma. Cioè ormai c'è l'ammutinamento, sì. Mi è stato specificato che sarebbe stato fatto. Io volevo solo fare un commento letterario, ma... Non ho avuto modo di fermare quello che stava accadendo. È stata l'onda. Perché tu hai letto tutta la bibliografia dei cugini Zapata. È evidente, grande. Perché sì, essendo chiaramente sì, una famiglia di letterati, io li ho letti tutti quanti. Allora, dal Sud America con furore. Sì, certo, Zapata. Va bene, allora alle 9:10 nel dare le coordinate 800 24 00 24. Oppure se volete scriverci via SMS, cara Veronica, o WhatsApp, meglio. Allora, mio caro, meglio che sta parli io per, per il bene di tutti. Tempo. 800 24 sì. 00 24 e per il numero degli SMS 349 238 6666. Oh, soprattutto anche WhatsApp. Oggi abbiamo una puntata ricchissima, tanti funambolismi, perché parleremo di... Ricchissima è proprio l'aggettivo esatto, perché a seconda se la puntata va bene o va male, sei più o meno ricco. Esatto, gioco d'azzardo e partiremo da questo, ma poi parleremo anche di bici o auto. È una sfida che smuove veramente le coscienze, no? E poi parleremo purtroppo ancora del tema violenza sulle donne, avremo anche una storia da raccontare e parleremo di subbuteo, ma tu forse questo, vabbè, più avanti. Guarda, io direi che per oggi ho fatto il mio. Già abbiamo cominciato qui con questa tematica a me ostile. Il subbuteo. Adesso pure il subbuteo è... Ma generazioni di subbuteo. Vabbè, partiamo dal gioco d'azzardo. Cari ascoltatori, 800 24 00 24. Vedi, Peter Bescapè mi ha appena comunicato che il 20 di ottobre farà un torneo di subbuteo. Ah, davvero? Quindi, vedi che ci sono queste passioni mai sopite da piccolini. Ma è molto vintage il subbuteo, no? Beh sì, ormai è vintage. Alla mia età, quando avevo 10 anni, c'erano 15 anni, ma tornei, ma era una cosa... Vabbè, ma non anticipiamo troppo, perché le parleremo alle 10. Cara Veronica, dobbiamo parlare di gioco d'azzardo. Tu che atteggiamento hai nei confronti del gioco d'azzardo? Cioè ti capita di entrare al casino ogni tanto? Allora, è bene che io te lo dica adesso, perché te l'ho tenuto nascosto tutto il weekend. Oddio. Io sono un'ex giocatrice, non nel senso che mi hanno portata in comunità subito dopo, né che sono stata ricoverata, però ho una passione sfrenata per il blackjack. Ah, e mi sono dilettata per un periodo della mia vita andando appena potevo nei casinò a giocare a blackjack. Scusa, e devo dirti che ero una discreta giocatrice. No, fammi capire, ma quanti anni hai? No, adesso non queste domande ne parli come di una vita precedente. Allora ti rivelerò, nonostante di anni non ne abbia poi così tanti, effettivamente hai iniziato presto. A 20 anni ho avuto un'ossessione per un paio d'anni per il blackjack. Ah, ossessione. Poi, appena potevo andare un fine settimana, poi tu sai che c'è la fortuna del principio, che è la maledizione, sì. Quindi inizi vincendo e quindi ti convinci che tutta la tua vita sarà meravigliosamente finanziata dalle tue vincite. Invece non è così. Non è però così. Ero veramente una discreta giocatrice. Però, non so, materiale forse per Cesare Lanza, che salutiamo, uno dei decani del giornalismo italiano. Eccolo qua, Cesare, buongiorno. Buongiorno. Va bene decano del giornalismo italiano oppure va bene, sì? Ti avverto che la voce va e viene. Ah, va bene, la voce va e viene. Però, tra l'altro, ha come scritto un libro. Come il rosso e il nero. Come il rosso e il nero. Ha scritto un libro, tra l'altro, L'elogio del gioco d'azzardo, un paio d'anni fa, L'attimo fuggente editore. Però noi, il nostro punto di partenza deve essere anche un punto di partenza, come dire, molto più. Che comporta anche qualche problemuccio per alcuni. Salutiamo Giulia Migneco, che insieme a Claudio Forleo ha fatto un dossier presentato al Senato dal titolo Lose for Life, che ovviamente fa riecheggiare quel Win for Life, però in maniera diversa. Come salvare un paese in overdose di gioco d'azzardo. Migneco, buongiorno, grazie buongiorno di essere qui. Buongiorno a voi e buongiorno a tutti i radioascoltatori. Perché ci dice due dati che invece spostano, come dire, l'attenzione e fanno capire che il gioco d'azzardo legalizzato è anche un problema per molti. Allora, come dati ne bastano davvero due. Mm-hmm. Negli ultimi 20 anni il numero delle giocate è aumentato del 750%, facendo diventare l'Italia il paese europeo che spende maggiormente in azzardo. Secondo il Dipartimento delle Politiche Antidroga vi sono nel nostro paese fino a 1.300.000 giocatori patologici. Addirittura già, secondo me questi due dati possono rappresentare quello che è un quadro allarmante. Accidenti, 1.300.000 patologici. Ma c'era un altro dato che mi colpiva, che facendo la media addirittura ho letto, mi corregga se sbaglio, sostanzialmente noi spendiamo pro capite, cioè ciascuno, 478 euro l'anno. È una roba del genere. Che è una cifra esorbitante. Ebbene sì, dal punto di vista dello Stato sono 10 miliardi di introiti annuali, però si può anche ribaltare da questo punto di vista. Ecco, questo è un punto interessante. Ma dal punto di vista delle ricadute dobbiamo vedere appunto la patologia, il suo impatto sociale e tutto il resto, cosa coinvolge le mafie, gli affari, le difficoltà dei comuni nell'azione di prevenzione e contrasto di questo fenomeno, quindi va visto da diversi punti di vista. Perché uno degli aspetti più interessanti è anche le contraddizioni che ha lo Stato, perché da un lato una delle ragioni per cui è stata fatta questa liberalizzazione è stato le imposte che lo Stato acquisisce tramite il gioco d'azzardo. D'altro canto però poi c'è una spesa molto forte che lo Stato ha per tutti quelli che sono i danni collaterali da gioco. Esattamente. È proprio così, cioè lo Stato deve fare i conti appunto con quel 1.300.000 giocatori patologici che abbiamo e che è soltanto una stima, perché poi come sappiamo le dipendenze finiscono per trascinare nel vortice anche i familiari, gli amici, la sfera lavorativa del giocatore, quindi ad essere coinvolti si stimano milioni di cittadini e il problema è che lo Stato non è stato preparato. Beh, lo Stato la cifra ce l'ha detta, 10 miliardi di imposte fanno gola e fanno tesoro, perché poi sono soldi che entrano nelle casse. Però io vorrei capire, di fronte a questi numeri, Cesare Lanza, che ha scritto appunto L'elogio del gioco d'azzardo, come replica che sono esagerazioni, sono distorsioni di una qualcosa che non va condannato a priori? Ma io non credo intanto di dover replicare a niente. Ho delle mie opinioni, sono anche abbastanza esausto di dover sempre confrontarmi con questo tipo di oppositori. Diciamolo in parole semplicissime, io mi considero un liberale assoluto e penso che chiunque abbia la libertà di fare ciò che desidera, eventualmente anche rovinarsi al gioco d'azzardo, lo dico tanto per estremizzare, non mi piacerebbe, a condizione di non ledere la libertà degli altri, primo. Secondo, e poi potrei fermarmi qui perché hai detto tutto. Secondo, in tutti i paesi, non certo meno civili del nostro, il gioco d'azzardo esiste, ma c'è una differenza rispetto all'Italia. Quasi dovunque lo Stato c'è, quindi ci sono regole che vengono vigilate, rispettate. Perché in Italia tutto. In Italia non c'è. In Italia lo Stato è assente come per tutto, quindi si becca i soldi delle imposte, e qui consentitemi una parentesi, in un paese afflitto da infinità di tasse e di imposizioni ingiuste, almeno giocare ti concede una speranza, mentre quando devi pagare le cose più assurde, devi pagare e basta, chiusa parentesi. Lo Stato si becca i soldi, fa l'anima bella dicendo che il gioco può rovinare, come è possibile, e amen. Se ci fosse uno Stato vigile, le cose funzionerebbero, le regole sarebbero rispettate, ci sarebbe un grande vantaggio per il turismo, come per tanti altri paesi. Sì, invece fa solo il biscazziere, lo Stato solo che fa solo il biscazziere. Insomma. Ma perché lei Lanza dice anche che nel momento in cui non ci fosse la tassa sul gioco ci sarebbero comunque altre tasse dello Stato, bisognerebbe fare comunque delle altre manovre finanziarie per far entrare questi soldi. Capito, vuole soldi allo Stato. No, non è precisamente questo, vedo che mi avete detto con una certa attenzione, ma non è proprio questo. Questo poi spetterà a chi governa, gli economisti, eccetera. Io dico, da liberale assoluto, che se il gioco per caso fosse proibito finirebbe nelle mani della malavita, delle mafie, delle camorre eccetera, e continuerebbe ad esistere come sempre. Ma su questo io sono d'accordo, come quando si è proibito l'alcol e sappiamo come è andata a finire, cioè la proibizione queste sono le considerazioni essenziali. Poi posso aggiungere che i casinò, dove una volta si facevano ricevimenti e feste con le signore in abito lungo, adesso sono luoghi dove vedi le facce sono cambiati un po' i tempi. Però ci sono delle situazioni limite, per esempio nel Trevigiano è vero che Cesare Lanza dice non voglio, come dire, porla su questo piano, la notizia, Veronica, di due giorni fa di una signora molto anziana che era autosufficiente, stava in casa di cura e ha bruciato 200.000 euro, tutti i risparmi di una vita. Però Cesare Lanza dice questo è il liberalismo assoluto, cioè nonna slot, ho capito, ma da liberale dice uno è libero, la libertà assoluta c'è anche quella di purtroppo farsi del male. Potrei andare oltre. Io quando mi occupavo, scrivevo libri, quello che avete citato è l'ultimo, sì. Avevo scritto una decina in 20 anni, avevo sentito anche psicanalisti, studiosi dell'argomento, eccetera. Quasi tutti mi hanno detto chi si autodistrugge con il gioco si autodistruggerebbe comunque per un amore, per affari, per qualsiasi. Quindi il gioco è solo un pretesto. È ovvio che c'è un motore patologico dietro e la compulsività viene espressa in quello invece che in altro. Però vogliamo tornare da Giulia Migneco. C'è qualche altro dato che avete presentato al Senato e sul quale possiamo ragionare? I dati che ci ha dato sono un po' impressionanti, quelli della ludopatia, no? 1.300.000 patologici. Poi? Allora, assolutamente sì, voglio soltanto aggiungere una cosa per chiarire il tutto. Noi non siamo per il non siamo proibizionisti, però quello che crediamo è che tra il proibizionismo e la liberalizzazione sfrenata a cui abbiamo assistito negli ultimi 10 anni vi è una terza via, cioè non si può ridimensionare questo fenomeno, soprattutto se poi ricade in termini sociali e sanitari. Quello ma una cosa che volevo capire, infatti, è quando si parla di liberalizzazione indiscriminata, che è quello che un po' c'è stato, no, finora, nel senso... Esatto, e soprattutto gli enti locali si sono trovati ad avere molti problemi, infatti capivo che questo progetto nasce anche moltissimo dalle segnalazioni degli enti locali, e, ci spieghi di più? Sì. Allora, assolutamente sì, noi siamo Avviso Pubblico, io sono la responsabile dell'ufficio stampa, è un'associazione che mette insieme gli enti locali. Quindi questo libro nasce da un'esigenza, cioè tantissimi sindaci ci richiedevano da nord a sud cosa dovevano fare, come potevano affrontare questo fenomeno, perché hanno dovuto fare i conti con i danni sociali innescati dall'azzardo senza che nessuno li aiutasse. Quindi da anni noi che ci occupiamo di questo abbiamo messo insieme quelle che sono state le buone prassi amministrative portate avanti sui singoli territori per limitare il gioco patologico. Allora, si fermi un attimo Giulia Migneco e con Cesare Lanza, perché ci sono tanti ascoltatori che ci chiamano l'800 24 0024. Davide per esempio ci chiama da Padova, buongiorno Davide. Buongiorno a voi. Che ci vuole dire? Ma io appunto ho sofferto di gioco, insomma di ludopatia, e ho ascoltato un po' insomma le argomentazioni di chi è intervenuto e onestamente io trovo lo Stato complice. Cosa vuol dire ho sofferto? Scusi, lei giocava alle macchinette, giocava... Guardi, io ho cominciato con le classiche pubblicità che arrivano via internet dei casinò online. Ci ho messo per ridere dei soldi, ho vinto 40.000 euro e poi sono andato a giocare al casinò dal vivo e ho giocato per un anno e mezzo, due anni. Che ne pensa, al di là, adesso ci racconta appunto del perché lo Stato secondo lei è complice, che ne pensa della posizione di Cesare Lanza che dice chi si distrugge con il gioco ha un carattere forse, non vorrei dire debole, lui non l'ha detto, non mi permetterei io, ma che è portato a distruggersi? Ma probabilmente almeno io ho capito cosa cercavo nel gioco e cosa mi dava l'adrenalina nel gioco, e il giocatore almeno per me, io giocavo per noia sostanzialmente, e comunque l'adrenalina, parlo a carattere personale, me la dava la perdita, non la vincita. Accidenti. Capisci? Sì. Perché lo Stato dice complice? È complice perché mentre una volta, fino a qualche 10-15 anni fa, c'era un luogo per andare a giocare, un luogo dedicato a, ormai noi abbiamo l'autogrill, il tabaccaio, il supermercato, in questo centro commerciale, l'opportunità di buttare via dei soldi, sicché hanno voluto estendere, cioè aumentare molto il numero dei clienti, mentre prima bisognava comunque organizzare o comunque trovarsi o andare in un posto. Sì, c'è un'offerta, molto più ampia. Non sono così d'accordo per il discorso che diceva appunto della criminalità organizzata e queste cose, perché appunto non sarebbe nella totalità dei pazienti, assolutamente. Non tutti conoscono le bische, non tutti hanno accesso alle bische. Sì. Sono due mondi completamente diversi. No, è chiaro, diversi. Ma Cesare Lanza diceva se si toglie lo Stato va a finire in mano a qualcun altro. Comunque la ringraziamo, però Davide. Le conoscenze sono diverse. Grazie Davide per il suo intervento. Vediamo, anche perché ci sono, Alessandro, mille aspetti, per esempio, di autoinganno nel gioco che sono interessanti. Cioè la narrazione che uno fa a se stesso per continuare. Quindi se vinci dire il mio giorno fortunato, quindi devo continuare a darmi da fare e continuare a giocare oggi. Quando perdi invece, no, allora devo riuscire almeno a prendere i soldi della vincita. Sì. Quando inizia questo genere di racconto probabilmente si è scavallato da quello che è il vizio del gioco, che ha già una connotazione negativa, al concetto di malattia. Lo proprio. Sai molto bene allora con questo blackjack. Vabbè, andiamo a Sandro da Piacenza. No, perché sembrava proprio che fossi informata in questo meccanismo. Sandro da Piacenza, buongiorno. Buongiorno dottor Mila, poi le ricordo chi sono. Solo una cosa volevo dire, secondo me uno dei gravi problemi per quanto riguarda l'autopatia e queste cose è l'invidia. Noi italiani, siccome siamo invidiosi, quindi pensano di giocare per vincere i soldi perché pensano che il denaro nella vita possa risolvere tutto. Quindi secondo a mio modestissimo parere uno di questi problemi è questo qua, l'invidia verso le persone che hanno i soldi. La gente ormai ragiona, è sottocultura per me, da sottoproletariato. Ma perché mi deve ricordare chi è? Le devo dei soldi io? No, non credo. No, assolutamente, perché una delle prime trasmissioni lei, dottor Mila, ha detto che cercava un nome per un partito. Ti ricordi che io sono quello del Movimento per la Cayenna, ecco per il nome del Movimento per la Cayenna, per i politici, visto, mandarli alla Cayenna, sì, mi ricorda di me. Mi ricordo, quindi, il Movimento per la Cayenna non è male. Come va dimenticarlo? Bene. Sandro, la ringraziamo. Non so, Cesare Lanza, ha sentito i due ascoltatori, fanno suscitare qualche considerazione particolare, insomma, dice lo Stato, un ascoltatore da Padova, è la colpa, però... Anche rifugiarsi dietro le colpe dello Stato se uno perde un po' di soldi non è un po' sbagliato? Come credo di aver detto, il discorso è complesso. Da una parte c'è la libertà dall'altro c'è l'assenso dello Stato. Poi ci sono quei numeri che sento, ripeto, ai quali non credo assolutamente, e ho le mie informazioni da studiosi. Beh, non crede addirittura ai numeri? No, assolutamente, sono esagerati. Esagerati. Tra i fenomeni c'è anche questo proliferare di chi come sempre vuole armarsi della, della, del mandato della salvezza a favore degli altri. Ma non so, Giulia Migneco, non credo che fosse il vostro intento. Come li avete raccolti questi dati? Cesare Lanza è un po' scettico. No, no, sono dati ufficiali, quindi abbiamo semplicemente, li abbiamo semplicemente messi insieme, sono dati forniti dalle, dallo Stato, quindi non li abbiamo inventati né c'è un'inchiesta dietro, per cui abbiamo, sono i dati ufficiali che abbiamo recuperato e semplicemente messo insieme, che poi messi insieme uno dopo l'altro possono spaventare, ma non abbiamo inserito nulla di più. Ma la conclusione del vostro progetto sono sette proposte, io ho capito più o meno, sette possibilità per cercare di arginare i danni del gioco, no? L'impatto sociale che hanno. Ci accenna qualche cosa? Assolutamente sì, noi chiediamo di almeno far sì che lo Stato si prenda le responsabilità di insegnare ai cittadini a giocare, quindi puntiamo per esempio sul recepire i 12 punti che hanno presentato l'Osservatorio per il contrasto alla diffusione del gioco d'azzardo dal Ministero della Salute. Ci sono piccole accortezze che potrebbero già far sì che il giocatore si renda conto di in quale dipendenza è caduto, quindi per esempio l'introduzione della tessera sanitaria per accedere alle slot, il consentire esclusivamente l'utilizzo di monete e mai quello di banconote, il mantenere la vincita massima a 100 euro per partita, il, l'allungare la durata della partita da 4 a 7 secondi, cioè, e ce n'è tantissime altre, sono 12 punti per esempio soltanto quelli presentati dal Ministero. Va bene, però insomma sono proposte concrete. Poi, cara Veronica, come si sa, secondo me anche secondo me la libertà su tutto, dopodiché è chiaro, colpisce uno Stato che da una parte guadagna, dall'altra parte poi deve gestire i ludopatici, che è una malattia proprio accertata, quindi quello che inquieta un po' è quando sembra che ci sia una correità dello Stato in quelle che sono le patologie delle persone, e lì un pochino diventa più così. Eh sì, abbiamo dato questo spaccato. Allora, alle 9:29 minuti, anzi 9:30, dobbiamo andare a sentire la pubblicità. Poi racconteremo che cosa? Beh, torneremo per un attimo a parlare della violenza sulle donne, perché dobbiamo raccontare una storia abbastanza incredibile che tra l'altro ha intrecciato la vita di due donne, una morta, considerata inizialmente una prostituta, poi si è scoperto che veniva fatta prostituire dai parenti. Una vittima. Esatto, e colei che invece ha sgominato tutta questa vicenda è un capitano dei carabinieri, anche lei è una giovane donna, e quindi vorremmo raccontare questa storia di due funambole. E dopodiché chiamateci, 800 24 00 24, sai che c'è qua anche un funambolo che si aggira, che è Leonardo Manera, lo vedo anche lui un po' poco galvanizzato, perché è tornato anche questa settimana, è proprio un impunito. È incredibile, gli aprono la porta tutte le volte, tutte le volte ci picchia ogni settimana, dico questo weekend desisterà, niente torna dai. I funamboli. Allora, siamo qua, cara Veronica, alle 9:35 minuti, il numero è sempre lo stesso, 800 24 00 24. Abbiamo parlato di gioco d'azzardo, del tuo amore per il blackjack, si sa... Ma com'è finito questo amore per il blackjack? È finito di colpo? Guarda, c'è stata una disintossicazione spontanea, a un certo punto ho iniziato a focalizzarmi su altre cose, non ti so dire perché su sono così, vizi, su altri sono vizi. Abbastanza lunatica, è evidente, io salto da un vizio a un altro, questo di palo in frasca. Questa, cioè, chi ha un'attitudine così ce l'ha di suo e se la tiene, un po' ossessivo compulsiva, no? E sta lì. Mannaggia. Allora, vogliamo adesso alle 9:35 parlare di una storia che ci ha molto colpito, è uscita sui giornali, è una storia drammatica, è una storia che racconta la vicenda di Gloria Pompili, che a 23 anni è stata uccisa il 23 agosto scorso. E per raccontare questa storia vogliamo salutare un capitano dei Carabinieri, il comandante della compagnia dei Carabinieri di Terracina, il capitano Margherita Anzini, che è con noi e che ringraziamo. Buongiorno e grazie. Buongiorno ad essere a lei, qui. Grazie. Intanto, quando è successa questa tragedia? 23 anni, uccisa il 23 agosto, cioè quando è stata trovata assassinata, che cosa si è pensato in un primo tempo? Ma guardi, i carabinieri del reparto operativo di Latina e della compagnia di Terracina, che sono i primi ad essere intervenuti sul luogo del decesso, hanno da subito capito che non si trattava di morte naturale, bensì di morte violenta, quindi le indagini sono state avviate nell'immediatezza. Noi avevamo un dato certo, un punto di partenza, ovvero che la povera Gloria si prostituiva. Per tale motivo le indagini sono immediatamente state indirizzate nell'ambito del meretricio, oltre che a quello familiare naturalmente, perché cercavamo un eventuale protettore o dei clienti che ci potessero fornire delle informazioni utili alla ricostruzione dei fatti. Questo ecco. È un punto, cioè prostituta, però perché nell'ambito familiare? Cioè avete fatto una scoperta abbastanza agghiacciante, almeno a mio modo di vedere è una scoperta agghiacciante. Certo. Perché comunque il primo step è stato quello di ricostruire la vita di Gloria e abbiamo immediatamente capito che era nata e cresciuta in un contesto familiare molto difficile e comunque non dimentichiamo che coloro che hanno chiesto aiuto per primi sono stati proprio i due parenti che la trasportavano in macchina, ecco perché oltre all'ambiente della prostituzione ci siamo concentrati anche su quello familiare per capire se effettivamente la versione data dai due accompagnatori potesse essere quella veritiera. Ma che genere di ambiente familiare era quello in cui viveva Gloria? Cioè che contesto sociale era? Allora, consideri che Gloria era nata in un contesto familiare difficile, segnato anche dalla separazione dei suoi genitori. Lei diventa madre molto giovane, madre di due bimbi che oggi hanno 5 e 3 anni, che sono nati da una relazione con un uomo che adesso è ristretto in carcere. Sì. E successivamente ha contratto matrimonio con un 29enne egiziano, che è anche il fratello del destinatario della misura cautelare. Cioè non so se avete capito, è tutto nel contesto familiare, cioè Gloria che aveva 23 anni e due bambini peraltro, si prostituiva ma è stata uccisa poi dai parenti, no? Questa sì. Almeno avete scoperto. Questa voi. È la nostra ricostruzione esattamente che ha portato alle due ordinanze di custodia cautelare in carcere nei confronti della cugina e del compagno egiziano della cugina con cui lei viveva. Come è stata uccisa? Guardi, lei ha riportato numerose lesioni interne e quindi ha avuto diverse emorragie. Sicuramente la morte avvenuta il 23 agosto è l'epilogo di una serie di maltrattamenti e quindi di continui abusi fisici che la ragazza subiva da tempo. Tra l'altro, quando c'è stata la conferenza stampa, quando voi avete, come dire, raccontato questa svolta delle indagini, lei ha dichiarato che questa indagine servirà anche un po' a ridare, purtroppo non la vita ovviamente, ma la dignità a questa persona, Gloria Pompili, che era obbligata evidentemente a prostituirsi, no? Sì, sì, assolutamente. E infatti uno dei reati contestati è proprio sfruttamento e favoreggiamento della prostituzione. E io ho parlato proprio di dignità perché non dimentichiamo che Gloria aveva soli 23 anni, aveva una vita davanti, tanti sogni da realizzare per se stessa e per i suoi bambini. Due bimbi. E certo, purtroppo la vita non le ha sorriso perché così giovane si è trovata vittima di questa spirale di violenza che le hanno tolto appunto la dignità, le hanno tolto l'autostima, la sicurezza, la capacità di autodeterminazione, cioè tutti quegli ingredienti che a mio avviso rendono una donna forte, no? E purtroppo chiaro. Gloria non ha avuto la forza né il coraggio di poter reagire a queste. Ma Gloria non ha avuto violenze. Modo di denunciare precedentemente in alcun modo, no, gli abusi che Gloria subiva? Gloria non ha mai denunciato, probabilmente per paura, probabilmente perché capiva che quella era anche la fonte di sostentamento per i suoi bambini, certo. O forse anche perché non si rendeva conto, perché quando entri in quella spirale di violenza magari ti sembra normale ciò che invece è atroce. Senta, lei capitano dei Carabinieri, quindi donna di Stato, che si è dovuta, ha dovuto affrontare anche questa realtà di una donna che ha avuto un destino ben diverso, possiamo chiedere anche personalmente come ha gestito questa indagine? Guardi, quella di Gloria è sicuramente una storia terribile, perché si tratta di una storia di una ragazza che laddove avrebbe dovuto trovare conforto e protezione, ovvero la sua famiglia, nella sua famiglia invece ha trovato soltanto oppressione e annientamento della sua identità. Sicuramente è stato più difficile, è una storia che mi ha turbato particolarmente in quanto donna, ed in quanto donna che soprattutto crede fortemente nell'istituzione della famiglia e nei valori che ne derivano. Sì, perché scoprire in contesto... Io ho un'altra questione personale, ma come dire, da uomo in questo caso, perché non so Veronica se ti ricordi quando anche abbiamo visto la vicenda di Rimini, e in questo caso era la polizia che era intervenuta, no? C'era certo, il, c'erano la responsabile, le tre donne. Esatto, sì. La polizia che portavano quelli che sono ormai, anche hanno confessato, gli stupratori di Rimini. E in questo caso... Io non riesco a capire come facciate da donne, lei capitano dei carabinieri, a scindere un po' le due sì, il fatica ruolo, a tenere il ruolo professionale separati. E il ruolo di avere in mano, proprio lo dico in mano fisicamente, anche toccare fisicamente persone che si sono macchiati, uomini che si sono macchiati di reati del genere. Come appartenente all'Arma dei Carabinieri e soprattutto con il mio ruolo che è quello di comando, le rispondo che ogni reato viene da noi perseguito alla stessa maniera, senza alcuna distinzione di sorta, perché deve essere così. Però è innegabile che una storia simile, proprio per i suoi aspetti umani tragici e soprattutto per l'incolpevole coinvolgimento di questi due bambini, non può non colpire di più la mia sensibilità di donna. Che dirle, ritengo che la rabbia in questo caso sia un'emozione più che naturale e legittima. Poi va tenuta fuori, ovviamente. L'importante perché... è stata averla incanalata nella giusta direzione, e per noi è quella che ha consentito di assicurare la giustizia proprio coloro che noi riteniamo essersi macchiati di uno dei reati più efferati e più infimi che possono esistere. Tra l'altro, capitano, c'è un ultimo dettaglio agghiacciante: quello che i bambini erano presenti nella macchina, nella BMW dove è accaduto il tutto la sera in cui Gloria è stata uccisa. Sì, erano presenti, però ecco, le chiedo cortesemente, proprio per garantire questa forma di tutela assoluta nei confronti di minore, di lasciarli chiaro. proprio sì, fuori, ecco. Le chiedo solo questa cortesia. Ma assolutamente sì. Guardi, noi la ringraziamo, insomma è una storia che intreccia varie storie diverse, se vuole anche un po' la sua storia personale, perché da comandante della compagnia dei Carabinieri di Terracina si è trovata a gestire questa vicenda che riguarda una giovane donna che ha davvero avuto una vita molto, molto infelice. E la ringraziamo per essere stata con noi, capitano Margherita Anzini dei Carabinieri. Cara Veronica, che dire, guarda, qua ci sono ascoltatori che parlano del tema precedente. No, devo dire, sì, è una storia agghiacciante. Esatto, è un po' un pugno nello stomaco che abbiamo dato anche agli ascoltatori, ma voglio dire, raccontiamo tutto, raccontiamo l'Italia delle cose anche belle, delle cose che fanno discutere. Purtroppo ci sono anche cose e storie di questo genere. L'elemento della vessazione familiare su tutto il resto, oltre all'aspetto del femminile, del sopruso, è veramente inquietante. Sì. C'è Andrea che ci chiama da Roma all'800240024. Eccoci Andrea. Buongiorno. Che dice? No, volevo in realtà parlare del tema del gioco di cui era fatto prima. Bene. Prego. No, volevo semplicemente dire questo. Io capisco, ne sono uscito. Sicuramente il tema del gioco è un tema complesso, complicato, però o assumiamo la posizione proibizionista oppure decidiamo di capire come regolamentare, come gestirlo, perché altrimenti io dico semplicemente questo: il problema della ludopatia sicuramente esisterà, però poniamoci anche il tema del problema dell'alcolismo, del problema del tabagismo, cioè se cominciamo a vietare, appunto, ma il proibizionismo non è servito sull'alcol. Esattamente, per cui se cominciamo a dire che le sale da gioco non possono essere vicino alle scuole, allora ci possono essere posti dove si vende alcol? Ci possono essere posti dove si vende tabacco? Allora, bisogna capire se il proibizionismo è comunque una sorta, perché questa è una sorta di proibizionismo, va instaurato, allora bisogna secondo capire me no, sono secondo me no, Veronica. Ma infatti è vero che si tentano... No, anche secondo lei... Ma queste sono tutte le contraddizioni dello Stato, che tenta anche con l'alcol, no, di fare delle misure, non si può vendere oltre una tot ora fuori da alcuni posti, le sigarette, le campagne pubblicitarie che vengono fatte intimidatorie sui pacchetti, e poi però vengono vendute. Quindi sono tutte le contraddizioni che lo Stato contiene in sé, per cui da un lato conto fa il monito e dall'altro poi invece è connivente. Certo. incassa soldi, incassa, sono tasse, anche se sono Alessandro accise. Però anzi, cosa fanno quando bisogna aumentare le tasse? L'accise sul tabacco, l'accise sulla benzina. Però no, benzina, quello che non cosa, abbiamo però detto prima, tu dicevi 10 miliardi di imposte ed è vero, ma ci sono anche 6 miliardi già riconosciuti oltre agli altri danni di costi per lo Stato dovuti dai danni da gioco, infatti, quindi ricadute sulle famiglie, i costi sanitari, le strutture che paghiamo noi sempre con le certo tasse. Quindi in realtà poi alla fine non dico che ci riandiamo pari, ma insomma più o meno quindi sì. Su questo, cioè dire che sia un discorso economico non è vero, poi che si voglia gestire è un altro conto. Intanto alle 9.45 è il momento del traffico e poi il nostro Leonardo Manera. Signori, ti piace questo entusiasmo, Leonardo? Beh, parecchio, guarda. È tanto tempo che non sentivo un entusiasmo così manifesto. Leo, aiutalo, non sta bene oggi, per ho favore. Hai ceduto con gli alcolici. Eccoli. È chiaro, ma ha fatto un fine settimana da leone. No, i bambini, la scuola. La domenica leone, il lunedì. Dai, il lunedì Luci, lotta Zapata anche, poi la regala a Duván che sfascia la porta per il gol dell'1-0. Non hai più niente da chiedere alla vita? Stai attendendo serenamente la tua ora? Sei ormai un peso per parenti e amici? Allora accelera la tua dipartita bevendo grandi quantità di vino Tronco. Il vino conservato in recipienti di cartone e amianto e derivante da vigneti coltivati sulla terra dei fuochi. Vino Tronco è il vino che aggrava ogni patologia e ne accentua gli effetti in modo esponenziale. Vino Tronco, l'ultimo vino della tua vita. I funamboli. Allora, potete mandarci anche gli audio al 349-238-6666 via WhatsApp. Cara Veronica, c'è Leonardo che ha mangiato in un posto... Ieri sono andato per la prima volta nella mia vita in un ristorante completamente vegano. Era un'esperienza, no. Sì. Mai fatto prima. Mio figlio voleva andare. Andiamo in un ristorante. Ma c'ha 6 anni, 7 anni. Ha visto un ristorante... Guarda subito la colpa ai bambini. Ma io veramente... No, siete due personaggi loschi, loschi. Mio figlio ha visto un ristorante vegano in televisione, ha detto andiamo che voglio vedere com'è. Allora sul cibo niente da dire, ho mangiato bene, sono un po' rimasto perplesso sul prezzo, perché il secondo era costituito da 3 fette di melanzane con sopra 2 cipolle e questo piatto gourmet mi è costato 18 euro. Buono però. 3 melanzane e 2 cipolle. Buono, ma forse un po' caro. Faccio comunque i complimenti al cuoco. Insomma, non so se anche voi pensate di andare in futuro in un ristorante. Io anche al cassiere faccio i complimenti. Dopo questo tuo racconto, credo che tu abbia disincentivato metà delle persone, no? No, invece è curioso andare perché mangi in modo diverso dal solito. Almeno per me è stata un'esperienza nuova, ma è il segno dei tempi in qualche modo, no? Come la ragazza che si è sposata da sola, vi ricorda? Laura, sì. Laura Mesi, 40 anni, no? Istruttrice di fitness di Lissone in Brianza, si è sposata, la prima sposa single, ha organizzato un grande party, costato 10.000 euro, si è sposata con se stessa con 2 fedi intrecciati in una sola e a celebrarlo c'era un suo amico con la fascia tricolore a fingere di fare il sindaco. La situazione magari poteva sembrare un po' strana, sulla torta nuziale invece dei 2 pupazzi diversi c'era solo il pupazzo di lei oppure 2 di lei con 2 vestiti diversi. Forse alla fine della cerimonia lei ha baciato se stesso, ovvero uno specchio. A un certo punto lei ha fatto 2 discorsi magari cambiando un po' voce. Invece per quanto riguarda far l'amore la prima notte di nozze, per quello non c'è problema, perché ormai la prima notte di nozze non si fa più l'amore neanche nei matrimoni normali, avendo già consumato in precedenza. Una volta il matrimonio segnava la fine della verginità, adesso invece segna la fine della promiscuità, almeno per un po'. Ci si sposa per dire adesso sessualmente mi tranquillizzo un attimo. Una volta sessualmente il matrimonio era il punto di partenza, adesso è il punto d'arrivo. È come dire, l'ho fatto con tutti, adesso mi sposo e mi riposo un momento. Il matrimonio di Laura Mesi non ha, diciamolo, nessun valore legale, però simbolico sì, e tutti a criticare, tutti a dire dove siamo finiti. È vero, sembra una cosa paradossale, però secondo me è solo la manifestazione di una situazione che c'è già da molto tempo in una società dove ormai facciamo quasi tutto da sole. Al supermercato spopolano le porzioni per single, tortellini, affettati, anche cibi che tradizionalmente venivano mangiati in famiglia. Ci sono i panettoni per single, il pandorino per single, lo zampone per single, ci sono tour operator specializzati in viaggi per single, dove magari incontri anche qualcuno con cui far l'amore, ma da single, dove alla fine non chiedi ti è piaciuto, ma chiedi mi è piaciuto, e poi ti riposi da solo. E poi subito dopo o ognuno la propria cameretta singola oppure doppia, ma uso singola. Un'agenzia di Londra, ne abbiamo parlato la settimana scorsa, vende un kit per farsi a casa il figlio da soli, o meglio da sole. Il noi sta sparendo anche dal punto di vista politico. Il noi è solo una traccia di lontane utopie, ma spesso si è singola anche quando si è in coppia. Lui in una stanza a guardare la partita, lei in un'altra stanza a guardare la fiction. Lui che mangia la cotoletta, lei che beve il centrifugato. Lui nel letto matrimoniale che guarda la TV, lei nello stesso letto che legge una rivista. Poi però, per ritrovare l'intimità, si va a fare l'amore nei locali scambi di coppia. Il re è nudo e Laura Mesi, la sposa che si è sposata con se stessa, lo ha messo davanti agli occhi di tutti. La felicità probabilmente è un'altra cosa, ma così almeno si evitano i problemi di coppia e quelli della separazione. L'unico vantaggio, se Laura Mesi si separerà da se stessa, è che almeno non dovrà pagare l'avvocato. Ciao Laura e buona luna di miele. Il tuo miele sicuramente l'avrà fatto un'ape, regina e solitaria. Ecco, grande il nostro Leonardo Manera. Ovviamente mi ha colpito, ma perché sposarsi da sola? È pieno di single già, è pieno perché lei aveva detto, io ho 38 anni, aveva due anni fa, se entro i 40 non trovo nessuno, il principe azzurro mi sposa solo perché io sono la persona con la quale sto meglio. Però è, è una consacrazione del proprio star bene con se stessi, no? Ma ho capito, ma perché sposarsi con la festa, la torta, le secondo le me fedi? Perché voleva i regali. Ecco. Questa è una ragione già ottima, per esempio. Lista di nozze? Beh, buttala via una lista di nozze da solo. 10.000 euro poi la festa. 10.000 euro. È un insegnante chissà di fitness. Chissà la lista di nozze invece quanto le... No, avrà fatto un conto, come lo stato col gioco. Ha detto, vabbè, mi conviene. Mi conviene, va bene. C'è Roberto che ci chiama da Rimini. Buongiorno, Roberto. Buongiorno. Buongiorno. Buongiorno. E niente, volevo intervenire sul discorso della ludopatia perché da padre di un bimbo di 3 anni e vivendo nella terra delle sala giochi mi rendo conto che sempre più i giochi non sono più quelli di una volta, il flipper o i videogiochi che mettono alla prova di abilità. O il subbuteo, perché tra poco parleremo di subbuteo. Ah, ok. No, si stanno diffondendo, qui forse riprendo il discorso fatto prima dello Stato che non controlla, anzi è quasi complice, dei giochi che danno dei ticket. E perciò i ragazzini, adesso mio figlio è piccolo, ancora va sul cavallino, ma i miei nipoti che hanno 8-10 anni raccolgono questi ticket con questi giochi simili d'azzardo, per poi avere dei piccoli premi, perciò si coltiva il giocatore d'azzardo fin da piccolissimo. E questo penso che sia una cosa triste, grave. Le mette un po' di tristezza, è anche grave. Sì, è anche vero che c'è un'attrazione in qualche modo istintiva verso certe cose. Io vedo appunto mio figlio che ha 8 anni, quando si entra in un bar dove ci sono le slot, lui immediatamente va lì attirato da queste macchine. Al bar vegano? Vegano, bar. Cioè, dove ci sono le slot perché? Vegane? Esatto, esatto. Non lo so, bar vegano. Questa cosa che ti ha voluto portare in un ristorante vegano devo ma parlare un attimo con Beniamino. Ma cosa gli credi anche? No, è vero, l'ha vista in televisione, sai che ci sono ormai... Ma ho capito, ma non è che vedo un ristorante vegano, papà portami in un ristorante vegano. E mio figlio è così, hai da ridire anche su mio figlio, Alessandro Mila, che persona polemica, veramente spiacevole e faticosa Alessandro Mila, mamma bravo mia. Bravo Leonardo, io sono con te, dai! Ribelliamoci. Da polemizzare su tutto, anche su dove vado al ristorante. Ma pensa ai ristoranti tuoi, Milan. Magari si è sbloccato Leonardo Manera. Attenzione. Perdonatemi, però è arrivato un messaggio di un ascoltatore che dice: dite a Manera di venire ad Albissola Marina, si dice così. Mi auguro. Sì? C'è un ristorante vegano dove le porzioni sono generose. E se prendi primo, secondo, dolce, vino, acqua e caffè, spendi. Però qui c'è poi la suspense. Facciamo vedere a Beniamino la pubblicità del ristorante. Adesso di Albissola. Adesso da ridire anche Marina. Su mio figlio, guarda che veramente seccante come cosa. Saluto Albissola, patria della ceramica, delle ceramiche d'autore, tra l'altro. Albissola Marina. Va bene, allora ti sei... Ma non mi parlare più che mi hai seccato. Pesante, che macigno questa persona, guarda, veramente un macigno, un piombo. Che bello, sì. C'è un clima di grande amicizia qui. Voglio la lotta nel fango. Siamo pronti per il giornale radio, direi, con questo clima cordiale, cordiale. Nella seconda parte di Funamboli parleremo di subbuteo, come detto, ma anche di bici o auto, bicicletta o auto. E tu cosa usi? Sì, la Veronica in bicicletta. Ma sì. Figurarsi. La risata la senti proprio di cuore. Stamattina è sarcastico, è inutilmente sarcastico. Bravo, è vero. Da fare ironia su queste cose non capisco cosa ci sia da ridere. Vabbè. Perché non posso prendere la bicicletta io? La situazione mi è sfuggita di mano. Andiamo al giornale. C'è stato l'ammutinamento. Il segnale orario vi è offerto da Stufe e Caminetti, la Nordica Extra Flame, il puro calore made in Italy che riscalda la vita. I Funamboli. Maybe I don't really wanna know how you got in girls, 'cause I just wanna fly. Allora, punizione dal limite per l'Arsenal all'89 e Davis si incarica del tiro e... gol! La situazione è Arsenal dell'89-4, Arsenal del 71-0. Credo che il povero Bob Wilson ci resterà piuttosto male. Quelli non batterebbero mai una squadra così per 4-0 su Butu, che sono io, una frana. Dovevi scegliere di essere un'altra squadra, allora. Chi altro c'è che in trasferta gioca con la maglia giallo-blu? L'Everton. Allora fai l'Everton. Ok. Però ricominciamo dall'inizio. Ricominciamo da capo. 0-0. Da febbre a 90, dal romanzo di Nick Hornby, sul calcio, cara Veronica, calcio, cara Veronica, calcio. Io non comprendo cosa tu dici. Io non calcio, comprendo. Calcio, calcio. Si parlava anche in questo breve stato di subbuteo. Che poi veramente oggi è un assedio, cioè il calcio perché è lunedì. I fratelli scrittori Zapata, adesso sì, ricominciate col subbuteo. È un incubo. Il subbuteo non è calcio, è una cosa diversa. Insomma, è una passione, esatto, anche calcio, indipendente dal calcio. È calcio piccolo. Su, diciamo come stanno le cose. No, è calcio non piccolo. È proprio così. È una passione che da bambino. Tu, Leonardo, da bambino giocavi al subbuteo? Mio fratello andò a Londra nel 79 e mi portò da Londra in regalo il mio primo campo di subbuteo. Io avevo 12 anni e da lì giocai ininterrottamente per 5-6 anni, anche colorando gli omini a mano. Ma certo, io facendo i campionati e dando le pagelle ai giocatori. Io con mio fratello facevo i campionati, lui era molto più forte di me, quindi se c'era, che ne so, Juve Atalanta, con rispetto per l'Atalanta, lui teneva la Juve perché in genere vinceva lui e quindi bisognava rimettere gli equilibri giusti. Ragazzi, mi spiegate come funziona? Cioè, chi non sa giocare a calcio, perché di questo stiamo parlando, no, non è calcio, scarica la sua frustrazione giocando sul tavolino a calcio, è così, no? Allora, te lo spiega, chi te lo spiega? Siamo qui alle 10 e adesso te lo spiega, alle 10:09. Il funambolo del giorno. Nome: Gianfranco. Cognome: Calonico. Età: 47 anni. Impiegato sanremese, 5 volte campione mondiale di subbuteo. Eccolo qui! E chi meglio di lui, Gianfranco Calonico, che salutiamo, buongiorno! Buongiorno a tutti. Campione mondiale. Allora, Calonico, che cos'è il subbuteo? Veronica Gentili, ascolta. Allora, Gianfranco, spiegalo proprio per bene a me, con calma. Oh, siamo proprio all'ABC, All'ABC addirittura. Sì, sì. Il subbuteo è praticamente un campo di calcio in miniatura, sì, dove si muovono delle miniature cercando di colpire la palla. E cercando di andare a fare gol all'avversario. Così hai fatto una descrizione molto poco accattivante. Dai, il subbuteo è un sogno da bambini. Ma no, cioè, il subbuteo è un sogno. No, ma più che altro, qual è la differenza col calcetto? Cioè il calcio da tavolo? Mamma mia, ragazzi. Il calcio da tavolo intende il calcio balilla, dai, calcio balilla. Ah, ecco, ok. No, il calcio balilla è solo una questione di forza, diciamo, di movimenti delle braccia, tutto quanto, secondo me. Cioè, tu ti devi immaginare, Veronica, degli omini alti più o meno 3 centimetri. Con una base basculante. Con una base basculante. Sì. Adesso, con le dita, con l'indice, tac, tac, tac, e colpisci la palla come dei soldatini, dei giocatori. Stai calmo. Cioè, Calonico, noi l'abbiamo chiamata per capire, per spiegarci perché è diventato 5 volte campione mondiale, ma qui dobbiamo partire proprio dallo zero. Ragazzi, se volete che abbandoni lo studio, basta dirmelo, eh. No. 5 volte campione del mondo! Ma Calonico, ma davvero? Vabbè, ma questo è stato conseguito anche a squadre con la nazionale, per cui il mio titolo individuale è stato... l'abbiamo vinto l'anno scorso individualmente, poi giocando con la nazionale si ha maggiori possibilità, in quanto la nazionale chiaramente ci sono i migliori giocatori d'Italia e quindi per questo c'è la possibilità di vincere in più, e fortunatamente in 6 anni di partecipazione ne ho 25 via, per essere dei campioni a questo subbuteo, cioè, quali sono le caratteristiche che servono? Bisogna essere dei geni, cioè avere un'intelligenza sopraffina? Sì, un quoziente intellettivo. No, come gli scacchi? No. Assolutamente, però è un mix tra tecnica e forza mentale. E sensibilità anche. Veronica si metterà a ridere in questo momento, però ci vuole della forza mentale. Perché che comunque, si intende per forza mentale? Pazienza? Perché pazienza innanzitutto, perché poi il gioco si sviluppa contro un avversario, per cui nel momento che hai la palla diciamo va tutto bene, ma devi cercare di non farla, di non perderla, perché ogni qualvolta ognuno ha la palla e c'ha il possesso, diciamo, l'avversario può fare una mossa difensiva e questo devi cercare di non farlo intercettare. Sta spiegando le regole del subbuteo, è straordinario. La cosa principale è la sensibilità nel dito, cioè muovere l'omino nel modo migliore. Ecco, ma c'è una particolare ginnastica che si fa per le mani, cioè tipo quella per l'artrosi? La ginnastica per gli indici delle mani. No, io vorrei chiarire una cosa, perché quando io ero piccolino c'erano persone che lo chiamavano subbuteo. È vero, Leonardo? Sì, è vero, l'avevo sentito anch'io. La pronuncia ufficiale è subbuteo, possiamo dirlo. Subbuteo. Ma Gianfranco, tu hai una squadra particolare con la quale giochi oppure? No, assolutamente, io non ho la pazienza di, come diceva prima Leonardo, che sentivo di pitturare le miniature, passare del tempo. A questa età qua purtroppo ci sono altre cose, tipo la famiglia, lavoro, tutto quanto, per cui non possiamo avere il tempo per pitturare le miniature, anche se da bambino chiaramente mi dilettavo anch'io a fare quel tipo di, diciamo, di accorgimento. Mentre Ivano ci scrive da Rimini, dice: io ero povero, giocavo a gioca gol. Cos'è gioca gol? Te lo spiego io. Il gioca gol è come il subbuto, ma completamente senza base basculante, una base piatta. Tutte le sapete, dove non puoi dare nessun tipo di effetto e dove il campo non è bello come quello del subbuto. È vero, guarda, c'è chi ci ha mandato in questo momento, lo faccio vedere a Leonardo, non ci chiede, Duvan Zapata in subbuteo. Questo è un giocatore brasiliano. Tra l'altro, Ale, è un'edizione tascabile? No, tra l'altro, per quelli che giocano subbuto in modo professionale, la base è molto meno basculante, è quasi piatta per far correre meglio sul tappeto. Esatto. Oltretutto, adesso i panni anche sono sviluppati i materiali per cui si gioca su un panno, prima esisteva quello di cotone, adesso invece è un panno sintetico. Il panno verde è il campo da gioco, lo dico a Veronica Gentili, è il campo, sono disegnate le righe, le porte. Veronica, la cosa che tu non sai è che c'è un mercato fiorente di cose che ruotano intorno al subbuto, le transenne per il campo. Dai, gli spalti, i tifosi, finti, tutto finto. I riflettori. No, però Calonico è interessante. Scusa, aspetta, Gianfranco, mi devi dire se nasce il giocare a subbuteo nasce da una frustrazione calcistica. Io lo devo sapere. Ma ci sono generazioni intere cresciute a subbuteo. Ma sei campione di subbuteo tu, te l'ho chiesto a te, taci. Gianfranco, dimmi. No. Allora, la mia storia è iniziata intorno a 7-8 anni, ho scoperto, diciamo, subbuteo tramite un amico che abitava nel mio stesso condominio, tra l'altro, per cui abbiamo iniziato a fare delle partite, come diceva Leonardo, a fare i campionati, a scrivere i risultati, queste cose qua, perché credo che un po' tutti... Ma era quella generazione, siamo coetanei, Gianfranco. Anch'io ricordo, mio fratello chiamava i suoi compagni ed erano tornei di pomeriggi interi quando erano le medie, no? Poi dici anni. Generazioni al macero... Abbandonando i libri di scuola, credo. Abbandonando i libri di scuola, ovviamente. Ma adesso i tuoi figli crescono da soli, cioè la mamma è una ragazza madre che li sta tirando su da soli? Praticamente, Gianfranco. No, assolutamente. Io ho un figlio nato 14 mesi fa e per cui da quel momento in poi ho iniziato a limitare i miei movimenti. Ma tu a subbuteo non ci puoi proprio giocare più, te lo dico io, altro che campione mondiale. Tua moglie ti stacca la testa. No, io vorrei sapere da Gianfranco chi sono i migliori al mondo, noi italiani nel subbuteo? Oppure... Senza falsa modestia, noi abbiamo una storia dove abbiamo vinto, basta guardare quest'anno, abbiamo vinto, ci sono diverse categorie, ci sono 5 categorie più quella femminile 6, praticamente abbiamo vinto tutti i mondiali a parte quella femminile che è sfuggita proprio per un soffio, quest'anno proprio per un soffio. Gianfranco, ma una cosa importante volevo chiederti, da campioni del mondo di subbuteo si guadagna qualche soldo o no? Perché io aspetto 18 euro in un ristorante vegano, volevo sapere se giocando a subbuteo... allora puoi continuare a mangiare vegano, secondo me. Cioè neanche un premio, non so. Assolutamente no, zero. Assolutamente no, ci sono dei premi in natura. in natura, nel senso della coppa, la cosa si comincia a fare interessante subito, allora, subito fino subito. Adesso vi ho preso sotto gamba, ma allora la situazione è diversa. Dici, ecco. Dici, ti ascolto con più attenzione, ho rimesso la cuffia, dimmi Gianfranco. Allora dicevo no, sì, ci sono dei premi tipo la coppa, o magari ogni tanto c'è qualche club che mette in palio magari dei prosciutti o delle bottiglie di vino, queste cose qui. La cosa principale rimane la soddisfazione di aver vinto un torneo. No, però questa ci devi aiutare. Effettivamente, come si chiamava? Ce l'ho anch'io, ma non mi... quel gioco di calcio tipo Subbuteo, non era, che aveva gli omini attaccati al campo con le bolle, che il campo era anche storto. Non ha un nome, ma era anche storto per permettere alla palla di arrivare. Senti, mai visto la domanda che suggeriva come Lorenzo Nespoli in regia? Cioè? Diceva: ma il campione del mondo di Subbuteo rimorchia come il campione del mondo di calcio, quello vero, sì. Gianfranco? Uguale. No. Il campione del mondo di calcio ha un sacco di soldi. Noi ce ne dobbiamo mettere perché si possa raggiungere determinati luoghi. Quindi per non vi giocare. Sposate le modelle, andate nei locali dove vi fanno entrare gratis e si girano tutti. Non funziona così. Assolutamente, almeno per quanto mi riguarda, no. Poi magari c'è altre persone, altre. No, però è molto simpatico. Io, Gianfranco Calonico, che gioca su Subbuteo, invece di questi ragazzi che sono attaccati alla Wii, al PlayStation, il Subbuteo è un modo per stare insieme poi, perché si gioca. Sì, è un modo di aggregazione, secondo me, dove si può riuscire a conoscere diverse realtà a partire da quelle regionali, da quelle italiane, da quelle europee. E senza far rincoglionire sti ragazzini. No, ma esatto, Gianfranco, una cosa sola, ma il Subbuteo è riuscito a resistere nonostante i videogiochi? Perché quando è subentrato l'autismo da no, video, no? No. Ma personalmente io i videogiochi io ci ho giocato come penso tutti quanti, ma... avevo, come dire, non sono stato attratto, nel senso che comunque no, certo, è un però giustamente prima tutti giocavano, adesso scherzando alla nostra età, adesso sono 6.000 praticanti. Comunque dobbiamo salutarti Gianfranco, perché altrimenti sforiamo tantissimo. Gianfranco Calonico, campione mondiale di Subbuteo, grazie della volte. Spiegazione, mi avete aperto un mondo, grazie. Dai, ti grazie mettiamo anche la mitica We Are The Champions, andiamo al traffico. Axerta, indaga, documenta, accerta. www.axerta.it vi presenta i funamboli. Some kind of nature. Some kind of soul. Allora, cara Veronica, 10:22 minuti, hai imparato tutto il Subbuteo. Bene. Adesso ho tutto chiaro, ma è arrivato un messaggio e una domanda, so che vorrai rispondere tu. Perché allora ci sono categorie diverse tra uomini e donne se non c'è di mezzo la forza fisica nel Subbuteo? Non lo sai. Non lo so. Allora la non donna... fare il però Manera lo sa, Manera lo sa. Oh, sì, ecco, perché... Leo, dici. Perché la donna anche nel Subbuteo, come nelle altre cose che riguardano il calcio, ha una resa comunque minore, ecco, diciamo così. Cioè, è una spiegazione maschilista. Perfetto, cioè, ti ringrazio di questa cosa, adesso è tutto chiaro. Ottimo. Allora, cari amici, voi girate in bicicletta nelle città? Veronica Gentili, figurarsi, ha detto subito di no. Stai attenta perché ci ascolta un ospite che potrebbe fulminarti con il pensiero. Figurati, il fatto che io non lo faccia non vuol dire che non sarebbe giusto che io lo facessi. Senti subito come si arrampica sugli specchi. Tu, Leonardo, per Milano. Allora, mi hanno rubato la bicicletta un mese fa. Ero fuori, ero andato in piscina con mio figlio. La stessa piscina dove ti ha rubato il portafogli. Cambiare piscina, no. Era una piscina vicina. E quando sono uscito la bicicletta non c'era più. Però 2 giorni fa ho visto che a Milano ci sono

le nostre città sono fatte poco per essere girate in bicicletta. Io sto parlando di Milano, per esempio, immagino che altre realtà un po' più piccole siano più fattibili. Infatti sono tanto. State vengono gestite come se fossero per le auto. La città, ora consentitemi di volare un po' alto, città viene da civitas, è fatta per i cittadini, cioè per le persone, per e non per le auto. Per tutti. Mentre negli ultimi anni sono state gestite, dobbiamo cercare di far arrivare le persone con la macchina davanti casa, davanti l'ufficio, cosa che è fisicamente impossibile. Francesco, ma lei mi sa dire qual è la città qui dove ci sono più biciclette, per esempio? Dove vengono utilizzate di più? Ferrara, Pesaro. Abbiamo fatto adesso un'iniziativa come FIAB che si chiama Comuni Ciclabili. Abbiamo dato perché delle lì? Perché lì? Qual è il segreto del successo della bicicletta? Ci hanno lavorato. Beh, comunque la percezione è che in tutta Italia ci sia un maggiore utilizzo delle biciclette rispetto anche solo pochi anni fa. Io ho questa impressione, non è così? È confermata dai dati. Mm-hmm. È confermata dai dati. Ci sono sempre più persone che usano la bici. Sono pochi i dati certi che noi possiamo avere perché non viene ancora misurato bene il numero di bici che circola, o ancora più spesso viene mescolato insieme ai pedoni, che di nuovo non va bene. Ma le città grandi con molto traffico, il traffico costituisce un deterrente? Il traffico è un deterrente nel senso che dovrebbe essere un deterrente a prendere l'auto perché uno sta troppo fermo. No, intendevo se intimorisce il ciclista. Perché si ha più paura dei rischi? Generalmente sì, ma di nuovo dico è una questione di percezione, perché il rischio in realtà più maggiore è il traffico, più le auto stanno ferme e quindi meno sono pericolose. Detto questo, bisogna torno a dire, è necessario cominciare seriamente una campagna a lavorare, e molti comuni in realtà lo stanno facendo. Per incentivare il traffico. Sì, c'è da dire che vede, i nostri ascoltatori che sono molto attenti, Carlo da Ferrara ci scrive proprio: ci sono una bici e mezzo per abitante a Ferrara, quindi è proprio una questione di cultura. Certo, ci fa notare un ascoltatore che dice: la macchina è vero che è molto più pericolosa, però nella macchina c'è una patente, c'è una targa, un'assicurazione, la bici invece, come dire, uno può anche andarsene, no? Non dovesse esserci un incidente, dovesse esserci uno scontro con un pedone. Ma allora, andarsene generalmente il ciclista è complicato, perché se colpisco una persona è molto probabile che cada anch'io. Sì. Per cui diventa difficile rialzarsi e andarsene, e comunque fermare una bicicletta è semplice. Non mi va, perché non ho voglia di far polemiche, anche se sono toscano, di dire quante persone in realtà abbiamo visto che investono e se ne vanno e poi vengono inseguite dalla polizia e magari c'è un morto per la strada. Senta, a me hanno rubato la bicicletta, lei verifica questo fatto che c'è un aumento, c'è un ritorno dei furti di bicicletta, di pezzi di biciclette, la sella, la ruota. A Milano è un disastro. Pensavo che fosse un fenomeno ormai finito, invece si è tornati a rubare le biciclette a quanto pare. Ma si è sempre rubato le biciclette. Diciamo che ultimamente si comincia a notarlo e a dirlo, e spero che abbia fatto anche una denuncia, come si dice, all'autorità di Ho capito, ma come fa a recuperare una bicicletta rubata? Vabbè, no. È più spesso di quello che si pensa in realtà, perché parlando noi con sia la polizia municipale sia anche la polizia di Stato e Carabinieri, più spesso di quello che si pensa si trovano biciclette, mucchi di biciclette e camion pieni di biciclette. Il problema è che in mancanza di una denuncia e di una foto della persona insieme alla sua bicicletta diventa complicato restituirla. Però Francesco, amico ciclista, senta Enrico che ci chiama da Roma all'800240024. Enrico, buongiorno. Sì, buongiorno a tutti. Una cortesia, io volevo sapere questo, che c'è un ritorno di voce. No, prego, noi la sentiamo bene, lei vada avanti. Volevo dire, a me sta bene tutto, che chiunque può ha la possibilità di andare in bicicletta, lo faccia, per carità di Dio, però vorrei sapere perché non debbono rispettare il codice della strada. Praticamente vanno contro mano di notte, senza luci, sui marciapiedi, e nessuno gli dice niente. Un po' ce l'ha mai detto, visto contravvenzionare un ciclista. Un po' ce l'ha spiegato Baroncini, a parte che se uno va di notte senza luci mette a rischio se stesso. Chiamale se vuoi emozioni. È un po' sprovveduto. Datemi mezzo secondo per dirlo forte, le luci sono fondamentali, cioè, è molto meglio raccontare o farsi prendere in giro perché si è vestiti come un albero di Natale di notte che rischiare di essere schiacciati perché una Bici di notte al buio è invisibile. Però Enrico diceva quello che abbiamo detto anche noi in maniera un po' più forte e veemente, cioè il contromano, il non rispettare le regole. Cioè, senti, tanto vado in bicicletta, taglio, faccio come voglio, faccio come un voglio, po'. Sì, infatti questa cosa che è un po' imperversa, ne fanno un po' il bello e il cattivo tempo i ciclisti, ogni tanto si dice, in particolar modo nella fazione pedoni, no? Montecchia Puleti. Il ciclista è un ribelle, è un rivoluzionario che vuole sovvertire le regole precostituite. L'ordine costituito. Sì. Anarcociclista. Che dice Baroncini? Con una battuta, che nessuna rivoluzione è mai stata fatta in bicicletta. Che bambini già nel Pacifico. Questo è vero, però cinesi. Questo è vero. I cinesi, i cinesi. Comunque a Bolzano dicono, a Bolzano ci dicono anche un'altra città dove uno su tre va in bici. Sì. E un altro ascoltatore dice: a Bolzano ti danno anche facilmente le multe se fai qualcosa di errato dal punto di vista. Precisamente. Questo stavo per dire. Le multe in realtà vengono fatte, è che non viene percepito, perché è difficile vedere un ciclista fermo con un vigile a farsi fare una multa. Ma io ho letto che sono aumentate tantissimo le multe, cioè il 62% di multe in più c'è stato nel 2016, cioè sono bersagliate queste biciclette. Vabbè. È giusto. Se lei non l'ho dovuto dire io, in risposta a chi dice per l'appunto che i ciclisti non vengono mai multati. Sì, ci sono, se sbagliano devono essere colpiti. Dobbiamo andare alla borsa, ringraziamo Francesco Baroncini, la borsa e poi tante altre cose. Oggi torna anche il Defurbizzati, tra poco. Sei un dermatologo in cerca di nuovi clienti? Allora acquista e regala ad amici e conoscenti la lozione dopo barba Lambro, la lozione che produce ogni giorno eccitanti novità sulla tua pelle, risolvibili solo con l'aiuto di un bravo dermatologo. Dopo barba Lambro, il dopo barba per l'uomo che non teme il pericolo. I funamboli. Confermo, mia figlia giocava a questi videogiochi dei ticket di 10 anni e quando non vinceva i ticket veniva a casa delusa e con l'accanimento di giocare di nuovo. Buongiorno, sono Luca di Mantova. Volevo dire che la forza motoria di questo gioco è il crick. Ciao! Grandi funamboli, siete i migliori. Finalmente oggi riesco ad ascoltarvi live perché non lavoro, sono di riposo. Ma Veronica, oggi ho comprato un giornale in cui tu collabori e in cui risulta un tuo articolo che non trovo, quindi volevo chiederti se devo tornare dall'edicolante a reclamare la pagina mancante. Ma come no? Certo, sul Fatto Quotidiano ti hanno fatto fuori. No, fino a prova contraria io lo vedo, però. Lo vede. Caro ascoltatore, sfoglia bene con attenzione. Bisogna scorrere nuovamente il giornale. Esatto. Ma poi si sa che per voi giornalisti non conta l'articolo, conta la firma. Per conta voi firma. È importante avere delle firme qua e là sparse nel giornale. Basta mettere la firma, anche se la metti in prima pagina così, no? Non importa perché ci sia scritto qualcosa. Che uno vede la firma e dice: toh, sono vivo. Bene. Così. La firma è come lo specchio che ti rivedi e dici: ah, ci sono ancora, ecco. Ci sono. Esatto. Okay. Allora, cari amici, se ci ascoltate dall'estero, chiamateci. No, meglio scriveteci al 349-238-0. Sì, va. Oggi non sta bene, non sta bene Alessandro Mille. Ha un virus parainfluenzale. Se ci chiamate dall'estero, chiamateci e fate una chiamata a carico del destinatario telefono di Alessandro Milan. 349-238-6666 per i vostri WhatsApp, se siete all'estero. Se invece volete raccontare la vostra furbata della vita, potete anche chiamarci all'800-24-0024, scrivere una mail dove, Leonardo? unamboli@radio24.it. Oh, non vogliamo incentivare le furbate, vogliamo defurbizzarvi. Defurbizzarvi. Lo scopo è questo, è chiaro. Per incentivare le furbate basta Veronica. Ma perché avete questa brutta opinione di me? Io non capisco. Blackjack, usi la bici, sempre la macchina. Lo vedi, ecco, alla fine di ogni puntata io torno con queste restituzioni terribili. Dopo Blackjack hai sostituito con altri vizi che non ci hai voluto dire. È meglio, però, nonostante la mia vita dissoluta, capisci. Guarda me, guarda come stai combinato tu oggi. Facciamo i conti. Comunque, no? Ci chiedevano come si chiamava quel coso con gli omini a molla in cui si giocava a calcio. Un ascoltatore ha scritto: calcio a molle. No, mi è venuto in mente. Si chiamava Gioco Gol. Gioco Gol. Sì, sì, questo era il nome dell'omino con la mano. Sì, Gioco Gol. Vabbè, però è il momento di salutare, no, senza sigla, perché la sigla ci fa schifo e la dobbiamo cambiare. La defurbi proprio ormai non tieni nemmeno più le apparenze. Dai, no, falla sentire. Falla sentire. La mitragliata. Defurbizziamoci. Defurbizziamoci. Vogliamo salutare Pinuccia che ci ha scritto. Pinuccia, buongiorno. Buongiorno Alino e a tutti gli altri. Eccoci. Che hai combinato nella vita, Pinuccia? Allora, innanzitutto dico che chiamo da Cadorago, in provincia di Como. Bene. La mia furbata risale a qualche decennio fa e devo frequentare la seconda classe di ragioneria e ci sono due sezioni. Gli alunni devono scegliere la seconda lingua straniera di studio. Io dalla scuola media come prima lingua mi porto francese. Ora devo scegliere tra tedesco e inglese. Scelgo inglese non perché sia proprio simpatico a me, ma perché il tedesco mi è decisamente antipatico. Mi scusi la... Vabbè, salutiamo Angela Merkel. Appunto, tanto quindi, ha vinto. Sceglie inglese. Ma mi sa che oggi non è di buon umore uguale, anche se ha vinto, Pinuccia. Così ha intuito... Dici, vabbè. Io scelgo inglese come la maggior parte degli alunni e per cui fanno un sorteggio per formare le classi dello stesso numero di studenti. Finisco tra i tedeschi, mi sembrava di saperlo. Finisce dal tedesco. E quindi? E quindi penso e ripenso, pensando ricavo. Mio padre lavora in un calzaturificio che ha una filiale a Malta, stato dipendente dal Regno Unito. Vado dal preside e racconto che c'è in vista il trasferimento di mio padre a Malta per la direzione di quella fabbrica e poi anche il resto della famiglia dovrà raggiungerlo. Quindi serve imparare l'inglese. Se me ne faccio dal tedesco a Malta, ovviamente bisogna imparare l'inglese. Ho capito, ma perché era vero il trasferimento? No. No. Ti sei inventata un trasferimento. La furbizia è tale che non te l'ha nemmeno dovuto esplicitare che non fosse vero. Risultato? E quindi no problem, cambio sezione, concesso immediatamente. Però la conclusione è che nessuno della mia famiglia ha mai pensato di andare a Malta né per lavoro né per turismo. Quindi l'inglese non c'è servito a niente. È servita a scegliere l'inglese. Ma quando dopo anni ti vedevano sempre nella stessa scuola, appunto, e di Malta neanche l'ombra, non è venuto qualche sospetto alla preside e ai professori? Non ci pensavano più? No, perché non lo so, perché comunque non è successo niente. Però non ho rubato niente a nessuno perché eravamo dispari come alunni. Quindi sono stata trasferita in un'altra classe e nessuno è andato nella classe di tedesco per colpa mia. Ecco. E soprattutto nessuno è andata a Malta. Sì, ma per colpa almeno tua. L'hai imparato l'inglese o no? Abbastanza. Non per... bene. Così no, così. Quindi direi no, Pinuccia, almeno una frasetta in inglese dopo questa ce la devi dire. Forza, dici. Ma ti dico una frasetta in esperanto? Vedi, però così la buttiamo in cacciara. Però va bene. Vabbè, Pinuccia, noi ci fidiamo ciecamente. L'esperanto, l'inglese, e ti diamo la patente di defurbizzata con la mitragliata. Dai, dovevamo andare al traffico. Grazie, Pinuccia. Intanto ci scrivono da Lione. Ci stanno ascoltando da Lione in questo momento. Vabbè, vi emoziona molto questa cosa. Andiamo al traffico. I funamboli. Ma a proposito di città in bicicletta, ma Mina, stai dando il là per dare altre tasse ai poveri cittadini anche andando in bicicletta? No, non credo, Ma perché tasse? Io ho parlato mica di tasse, tu Veronica hai parlato di tasse forse. No, le tasse eravamo rimasti a quelle del gioco d'azzardo. Ah, io per ero le fermato multe, lì. Le multe. Se uno fa una infrazione è bene che prenda la multa anche in bici, no? Vabbè, cara Veronica, sai che è venuto a ritrovarci qui negli studi il direttore, professor Guido Baldo. Buongiorno, saluto. Lui è bravo, sì. Bravo, anche lei, cara Veronica Gentili, professor Milan, bravo. Grazie, dottor Milan. Non sono professore. Ma guarda, io non conosco bene la realtà italiana, perché fino a qualche anno fa vivevo nella mia Turris Eburnea. Sapete cosa vuol dire Turris Eburnea? Torre d'Avorio. Bravo, un uomo di cultura. Grazie. Con i miei studi, nei filosofi, senza televisione. televisione. Poi un paio d'anni fa da amici mi sono imbattuto in una televisione accesa. Mi sono reso conto dell'Italia in cui viviamo, caro Milan. Gli italiani non sanno nulla di Aristotele, di Socrate, di Platone, ma sanno tutto, per esempio, di un certo cantante chiamato Rovazzi. Che cantava l'anno scorso "Andiamo a comandare col trattore in tangenziale". Sì, esatto, testo di una pochezza assoluta, che probabilmente proprio per questo ha fatto breccia nelle orecchie italiane. Bravo. Allora io propongo "Colla nelle orecchie" per chi ascolta Rovazzi. Per chi ascolta Rovazzi, un'Italia dove veniamo costantemente presi in giro. Allora io ho alcune proposte. Per esempio, per le scuole, studio della figura del ministro Angelino Alfano, per capire come un personaggio con un così esiguo seguito elettorale sia riuscito a diventare ministro. Bravo, Alfano. Questa è una materia interessante. Ma non è l'unico che, pur non avendo un talento eccezionale, per usare un eufemismo, è riuscito a realizzare i suoi sogni. Un signore chiamato Fedez, più che un signore un insieme di tatuaggi ambulanti, è riuscito a vendere centinaia di migliaia di dischi pur senza essere Bob Marley. Ma non è l'unico, anche altri. Per tutta l'estate abbiamo ascoltato copiosamente una canzone che recitava "Sotto il sole di Riccione quasi quasi mi pento e faccio a schiaffi con le sotto onde sole, e con sotto... brava. Questi sono testi da sotterrare immediatamente in un bosco il più possibile isolato dal genere umano, da bruciare in un alto forno questi testi e mandare immediatamente in esilio chi li canta. Bravo. Ecco, Veronica. Ma ho anche altre proposte. Moratoria per un anno per tutti i programmi di cucina. Non ne posso più di vedere programmi di cucina per tutto, con cuochi che si ergono al ruolo di metà pensieri, di intellettuali. Io voglio ribadire che uno spaghetto alle vongole resta uno spaghetto alle vongole anche se lo cucina un signore che si chiama Carlo Cracco. Non diventa un'opera di filosofia intellettuale, resta uno spaghetto alle vongole. Lo dica al figlio di Madera che poi lo porta. Ma chi invece si atteggia a questo signor Cracco, grande intellettuale, guida spirituale? Io propongo l'esilio di almeno per un anno per il signor Cracco, fino a quando va recuperato il senso della realtà. E ultimo problema e ultima proposta: castrazione meccanica. Per i cinquantenni italiani, soprattutto del nord Italia, che parlano come fossero degli adolescenti in balia a qualche tardiva tempesta ormonale. Uomini fatti e finiti che a 50 anni dicono "bella zio". Quando conoscono una donna dicono "ti porto nello scannatoio". Quindi via tutti questi, castrazione meccanica per questi signori. Vede, caro Milan e cara Gentili, il mio monumento preferito in Italia è la Torre di Pisa, ma ogni volta che la vedo io mi convinto sempre di più che non è lei che è storta, è tutto il resto d'Italia che non è dritto. Così la pensa Guido Baldo. Oh, bravo Guido Baldo, deve fondare un partito, bravo, con questi punti. È proprio bravo. Ma sì, guardi, ci sto pensando. Bravo. Un partitino piccolo che però può essere invadente, avere un appaltino, fare delle piccole cose fastidiose per gli altri, qualche soldino, un sottosegretarino. Esatto, poi andiamo a scuola, studiamo la materia Alfano e capiamo anche da un piccolo partitino come cercare di espanderci. Il mio modello è Alfano, un uomo che con pochissimi voti riesce a condizionare tutta la politica italiana. È un vero mistero. È bravo Alfano. Il nostro professor Guido Baldo, il nostro Leonardo Manera. Cara Veronica, qui di Riccione, quasi mi perdo. E non ci penso più, Faccio a schiaffi con le onde, con il vento li prendo. Come se fossero te. Va bene. C'è Anna da Napoli. Perdonatemi, c'è un gap generazionale tra noi che ogni tanto si fa sentire. Abbiamo 30 secondi. Anna, buongiorno. Buongiorno a voi, grazie per avermi consentito di intervenire sulle biciclette. Perché credo che sia effettivamente una questione di educazione. E ricordo sempre con piacere che a 10 anni andai a Carpi, un paesino vicino Modena, e i miei zii andavano tranquillamente in bicicletta in ogni dove, ed è bellissimo. E poi voglio testimoniare che in città grandissime, io torno oggi dalla Cina, Pechino e Shanghai ha milioni di abitanti e milioni di automobili, dove le biciclette sono usate tranquillamente senza provocare incidenti. Ma guarda Anna, si fermi qui perché abbiamo proprio 10 secondi, lì in Cina c'è anche una questione di inquinamento, molto, vabbè, fatela cantare, più, dai. Non ci penso I funamboli più. Tornano faccio domani. Faccio a schiaffi con le onde, con il vento le prendo, come se fossero te.